Tempo. Chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente lo ha mai fermato. E tutta più forte lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare. Se da organizzare da dividere in pasti, cassa rullante, la mia voce di passi bassi, me degli alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Tempo, 109 battute al minuto, quando finisce forse ti sarà piaciuto. La chiave per capire questo genere di suono, che a molte orecchie può sembrare frastuono, è liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi e aprire bene il cuore, che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco. Sono passate mille generazioni, da rockabilly, punk ai cappelloni, i metallari, paninari, i sorcini e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere. Quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Io no che non m'annoio, tempo prezioso. Conosco un modo per rimanere a galla, non avvocare a questa grande balla del tempo che ti fa cambiare, che ti modella. E più vai avanti e più la vita è meno bella. Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa, e stare insieme sarà sempre una festa. Se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco, non c'è noia, non sarai mai stanco. Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare. E non m'annoio, io continuo a ballare. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo, quando stai bene lui va via come un lampo. Quando t'annoi un attimo sembra eterno, e il paradiso può diventare inferno. Tempo ti fregue, con il ritmo ti cattura, ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro. E ti organizzo in battute in quattro quarti, allora non avrai tempo di liberarti. E con le gambe muovo anche il cervello, e allora il tempo sarà mio fratello. E come lui mi darà sempre una mano, mi darà tempo per andare lontano. E come Ulisse cercherò di ritrovare quella mia isola, ma intanto viaggiare sarà piacevole, sarà indispensabile, anche se l'isola sarà irraggiungibile. E non m'annoio, io no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.